I nidi erano refrigerati con impianti di condizionamento esclusivamente nei dormitori e le altre aule erano prive di impianti. Questo significa che i bambini hanno sofferto, alcuni genitori hanno rinunciato a mandare i bambini proprio per evitare loro la sofferenza. Abbiamo le strutture che devono essere mantenute, ricordo l'episodio di fuga di alcuni bambini perché i cancelli erano rimasti aperti. Abbiamo il problema dei rapporti numerici. Nelle scuole dell'infanzia il rapporto adulto-bambino è una 25 e tra questi bambini abbiamo anche dei bambini con delle esigenze educative speciali che non hanno certificazione ma hanno bisogno di un accudimento specifico. Parliamo delle sostituzioni, spesso e volentieri le educatrici non sono sostituite, quindi vuol dire che il rapporto numerico automaticamente aumenta. Abbiamo una carenza importante di organico nel gruppo delle pedagogisti, dei coordinatori pedagogici che sono coloro che devono organizzare a livello pedagogico nei servizi l'attività dell'educatrice e degli insegnanti. E poi abbiamo gli uffici constano di 30 operatrici e operatori a fronte di oltre 1500 dipendenti che devono gestire in termini di inserimento di ore, inserimento del monte ore, e a volte queste colleghe devono inserire manualmente i numeri in un momento in cui la tecnologia la vince.